Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Bruxelles, Berlino, Copenaghen, i cittadini di tutta Europa protestano contro l'accordo commerciale UE-Canada, una sollevazione popolare che evidenzia la perplessità dei cittadini sulla politica di libero scambio dell'Unione Europea. Per prevenire ulteriori proteste, il Parlamento Europeo sta analizzando la questione. È in discussione la legittimità degli accordi commerciali europei. L'Unione Europea sviluppa il 15% del commercio mondiale di beni, trasporti, tessuti, prodotti chimici, alimenti e bevande. Le esportazioni dell'Europa restituiscono buoni risultati, con un bilancio positivo di 64 miliardi di euro nel 2015. La recente firma dell'accordo con il Canada dovrebbe dare ulteriore impulso al commercio. Secondo la Commissione, spetta ora al Parlamento arrivare alla ratifica. L'accordo con il Canada, chiamato comunemente CETA, è un ottimo esempio di come l'Unione Europea possa influire sulla politica di scambio globale, modellando quindi la globalizzazione stessa. Ne parliamo con l'europarlamentare Tiziana Beghin. In accordi di questo tipo raramente è stata coinvolta l'opinione pubblica. Troppo spesso sono stati discussi a porte chiuse. Così non si finisce forse per essere poco trasparenti? Sì, certamente l'accordo con il Canada, fondamentalmente anche noi come parlamentari lo abbiamo trovato belle confezionato, non abbiamo potuto incidere in nessun modo sui negoziati, noi dell'ultima legislatura. Quello che ne è risultato è un accordo su cui effettivamente soltanto alla fine si sono espresse la società civile e parlamentari anche con moltissime contestazioni, quindi un processo decisamente non coinvolgente, sbagliato, poco allineato a quella che è comunque una tendenza ormai giustamente che vuole vedere il cittadino sempre più vicino a certi tipi di decisioni che sembrano lontane ma che in realtà lo coinvolgono moltissimo. Cosa possiamo ipotizzare per l'accordo con il Canada anche in seguito alle elezioni di Trump? Qui lo scenario è abbastanza difficile da prevedere. Di sicuro con il TTIP bloccato molte aziende americane vedono nel CETA una possibile testa di ponte verso l'Europa. Mi ricordo che delle 47.000 aziende che si ipotizzava potessero fare poi causa agli stati tramite il meccanismo di composizione delle controversie, ben 41.000 hanno già sede oggi in Canada e per effetto del NAFTA quindi potrebbero comunque, grazie al CETA, avere alcuni dei vantaggi che avrebbero poi avuto con il TTIP. Quindi bisognerà capire se Trump avrà le mani libere e portare quindi avanti quello che è stato il suo slogan elettorale di riportare o lavoro e industria negli Stati Uniti, o se invece anche in questo caso le lobby e le multinazionali riusciranno nel loro intento, che poi è quello di arrivare a un mercato ideale dove le leggi le fanno loro e dove il libero scambio domina su tutti, anche i diritti di lavoratori e di consumatori. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.